qui dove il mare luccica e dove tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai. Le luci in mezzo al mare, le sole notti là in America. Sai, erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti l'olore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando viene uscire dalla nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, due occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elica. Te